Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente, anche oggi, mentre si vota in Gran Bretagna, ci occuperemo di Brexit con altre interviste. Le borse sono tutte estremamente positive, in particolar modo Milano, perché vanno molto bene oggi da noi le banche. Per molto bene intendo dire che UbiBank guadagna il 7,80%. Che Unipol guadagna il 6,30%, Popolare Emilia Romagna il 6%, Banco Popolare il 5,90%, Unicredit il 5,5%, Mediobanca il 4,90%, Pop Milano il 4,5%, Exor pure, e bene anche Telecom Italia più 3,90%, Intesa più 3,81%, Mediaset più 3,70%, praticamente di negativo oggi non c'è nulla, Italcementi e Poste Italiane che sono invariate. Tutti si aspettano a questo punto, lo dico perché anche le altre borse sono positive, Parigi più 1,40, Francoforte più 1,30, Londra più 0,60, Dow Jones più 0,90, diciamo tutti si aspettano, un motivo per cui i mercati vanno bene, perché si attendono che vincano i Remain, quindi quelli che vogliono restare in Unione Europea. Poi ci sono anche casi specifici, mi riferisco a Telecom, ma anche UbiBank, dove c'è molta attesa per il piano industriale di lunedì, e via così. L'euro su dollaro è 1,1346. I temi di cui ci occuperemo oggi, chiaramente, ripeto, oltre che la Brexit, anche il rapporto che è arrivato dal Centro Studi di Confindustria sul contributo diretto dei lavoratori stranieri in Italia ha superato i 120 miliardi nel 2015, sono praticamente il 9% del PIL complessivo. Questo all'interno anche dell'indicazione che è arrivata dal governo di poter utilizzare alcuni degli extracomunitari per lavori utili, ne parleremo. Parleremo chiaramente anche e anche del rapporto Confindustria su questo, così come ascolteremo anche alcune dichiarazioni oggi rese dal numero uno di Eni ed Enel, assieme al Presidente del Consiglio, sulla cosiddetta strategia verde. Se ne è parlato infatti questa mattina assieme al Premier Matteo Renzi, il Ministro Carlo Calenda, il Ministro Galletti e appunto i numeri uno di Eni ed Enel. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda le altre notizie in breve di questa giornata economico-finanziaria, oggi c'è il report annuale del World Wealth Report, ossia i grandi ricchi al mondo, e continuano ad aumentare. Lo dico perché questo è tema di dibattito anche sulle divergenze che questa crisi, o meglio la divaricazione che questa crisi ha portato in alcuni paesi. Il World Wealth Report fa notare che i grandi ricchi nel mondo sono praticamente quelli che vantano un patrimonio personale superiore a $1 milione, sono oltre 15 milioni di persone, 15 milioni e mezzo di persone. In Italia sono 228.700 e sono cresciuti di 10.000 persone rispetto al 2014, un più 4,5%. A dimostrazione che mentre c'è una parte, lo dico senza retorica, senza populismo, insomma, mentre c'è una parte del paese che soffre sempre di più, ci sono 10.000 nuovi ricchi in questo paese. Uno può dire bene, Certo che è un bene se un paese si arricchisce, non se aumentano le diversità, le divaricazioni sociali, questo no, per cui insomma il problema è che questi 10.000 nuovi ricchi fanno fronte a un impoverimento di una fetta consistente del paese. La sterlina, mi chiedete, beh, è arrivata a quota anche 1,48 nei confronti del dollaro, quindi al massimo nel 2016. L'euro ha riagganciato quota 1,14, adesso però è disceso per la prima volta dopo giugno. La sterlina è arrivata anche a quota 1,49 sul dollaro, è sempre stabile sull'euro invece. Tutti parlano di giorno speciale, l'ha fatto anche la cancelliera Angela Merkel, che ha detto spero che la Gran Bretagna resti parte dell'Unione Europea, addirittura dalla Cina, la Cina ha detto di seguire da vicino la vicenda Brexit e ha auspicato un'Unione Europea forte e stabile, c'è rispetto per la volontà popolare ma avanti con l'integrazione europea. Se la Gran Bretagna dovesse uscire dall'Unione Europea, dice l'agenzia di rating Standard & Poor's, perderebbe la AAA, e su questo insomma, ripeto, ne parleremo ampiamente alle 18:10 più o meno. Andiamo alle rinnovabili. Dicevo, questa mattina a conferenza stampa con il premier Matteo Renzi, il ministro Carlo Calenda e appunto il numero uno di Eni, Claudio Descalzi, e anche di Enel. Allora, sentiamo Renzi sulle rinnovabili. Praticamente hanno firmato il decreto che assegna 9 miliardi alle fonti rinnovabili non fotovoltaiche per i prossimi 20 anni. Renzi ha detto basta lezioni, demagogia, l'Italia è il paese più rinnovabile. L'Italia non è soltanto il paese più bello del mondo per gli italiani e non soltanto per gli italiani, è il paese che può essere il paese più rinnovabile. Paradossalmente, basta di prendere lezioni dagli altri, siamo all'avanguardia su questi settori, ma essere all'avanguardia vuol dire cambiare sempre, costantemente, e quindi la conferenza stampa di oggi era un punto, credo, importante per dimostrare che dopo la stagione delle polemiche, della demagogia, della campagna referendaria, tutti insieme vogliamo lavorare per fare dell'Italia il paese più rinnovabile. Possiamo farlo perché abbiamo talenti, ingegneria, capacità, innovazione e perché abbiamo anche energie nuove pronte ad essere messe in campo dalle principali aziende di questo paese e dal governo. E ancora per quello che riguarda la strategia verde, Renzi ha detto c'è una strategia verde, il decreto da 9 miliardi di euro impegna appunto Eni, Enel, Terna. Eni ed Enel, Terna farà 4 miliardi di investimenti in 4 anni, 1 miliardo all'anno. Per quello che riguarda però la partecipazione del governo in Eni, Enel e Terna, Renzi ha smentito che il governo e quindi lo Stato possa scendere ulteriormente come quota in queste aziende. Rispetto alle percentuali dello Stato in Eni ed Enel, a questa si riferiva, oltre che naturalmente in Terna, che però ha, come noto, parliamo del pubblico più correttamente, perché Cassa Depositi e Prestiti, diamo la posizione come governo, noi non intendiamo scendere ulteriormente, noi non intendiamo scendere ulteriormente nelle nostre aziende che lei ha citato, e quindi penso che sia una risposta secca alla domanda chiusa che era stata fatta. Vediamo invece quelli che saranno i fondi messi dai grandi gruppi. Starace, il numero uno di Enel, ha detto abbiamo da investire 2 miliardi e 200 milioni di euro sulle rinnovabili, guardiamo all'evoluzione normativa. Comunque ha chiarito appunto che Enel ha un pacchetto di 2 miliardi e 200 milioni da mettere in campo. Il settore della produzione di energia elettrica, stiamo parlando che a livello europeo il 47% della produzione di energia elettrica al 2030 dovrebbe venire da energie rinnovabili. Oggi in Italia siamo al 33%, quindi abbiamo un buon risultato, ma ancora molta strada da fare. E siccome siamo in Italia e parliamo d'Italia, noi qui vogliamo un po' spiegare che cosa è che vorremmo fare. Innanzitutto parliamo un attimo della situazione di Enel Green Power, che da quando abbiamo cominciato a lavorare, quindi dal momento della quotazione ad oggi, ha investito circa 9 miliardi di euro nella crescita, quindi nei passati 5 anni, di cui 1,9 in Italia, quindi in Italia è stata una parte importante di questa crescita, considerando che c'è tutto il mondo davanti. Oggi abbiamo in Enel Green Power 10.700 megawatt di generazione, è la più grande azienda rinnovabile al mondo in questo momento, soprattutto se consideriamo che stiamo trasportando in Enel Green Power 25.000 megawatt di produzione idroelettrica a livello mondiale, che faranno di Green Power un colosso nel campo delle energie rinnovabili di dimensioni circa 3 volte la società più vicina che c'è al mondo. Allora, dico ad alcuni ascoltatori, se parliamo troppo di Brexit, parliamo troppo di Brexit. Adesso qualcuno dice, come fate a far sentire il Presidente del Consiglio quando c'è la Brexit? Abbiamo anche oggi un approfondimento sulla Brexit, e come se non ce l'abbiamo, e poi alle 21 inizia il lungo speciale che terminerà questa notte e riprenderà domani mattina all'alba. Allora, De Scalzi, numero uno dell'ENI, pronti a fare una joint venture con l'Enel proprio sul tema delle rinnovabili. Questi terreni sono enormi. Noi per questa prima fase abbiamo selezionato 400 ettari sui 4.000 a disposizione, quindi la potenzialità si può arrivare fino a 2.4 gigawatt. Questo discorso l'abbiamo iniziato insieme, stiamo già parlando con Francesco e con chi altro è disponibile per fare joint venture su questi terreni, per unire le forze e per accelerare gli investimenti. Questo è un fatto fondamentale, perché vuol dire trasformare questi siti, che sono siti morti e non utilizzabili, in qualcosa di vivo verso il rinnovabile. Allora, prima di arrivare poi alla consueta pagina della Brexit, vorrei concentrarmi su un tema che riguarda in parte anche uno dei temi della campagna elettorale in Gran Bretagna. Sapete che è uno degli elementi per chi vuole votare Leave, andarsene, sono anche le politiche sull'immigrazione. Ma lo affrontiamo da un altro punto di vista, perché ieri nel corso dell'incontro tra il Presidente Confindustria Boccia e il Ministro dell'Interno Alfano è stato sottoscritto un accordo quadro sulle modalità di collaborazione per favorire percorsi di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale. Cos'è? Traduco. Chi è un rifugiato politico, si dice, invece che lasciarlo nei centri per mesi, mesi e mesi, visto che gli si riconosce lo status di rifugiato politico, non è possibile iniziare a integrarlo con attività produttive invece che lasciarlo in qualche modo, non dico abbandonato, ma a nulla fare nei centri di accoglienza nazionale. Ieri c'è stato un primo protocollo firmato appunto tra Confindustria e il ministro Alfano. Oggi, e anche ieri, il Centro Studi Confindustria ha proposto un piano di azione in 3 punti, anche perché lo stesso Centro Studi dice che bisogna incoraggiare gli arrivi dei lavoratori qualificati, superare le rigidità del sistema a quote. Sappiamo che l'Europa avrà bisogno, piaccia o non piaccia, di 42 milioni di nuove persone attive entro il 2020, di oltre 250 milioni a livello europeo entro il 2060. Siamo in collegamento con il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi. Buonasera. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Ecco, Luca, cosa sono i punti, il piano d'azione in 3 punti e entro quale ragionamento si inseriscono? Il ragionamento è molto semplice. In Italia oggi ci sono 5,8 milioni di persone straniere, residenti. Se aggiungiamo un 300.000 irregolari, abbiamo 6,1 milioni, circa 10% della popolazione. Questo numero è destinato a crescere nel corso del tempo per ragioni di domanda e per ragioni di offerta. Per ragioni di offerta, perché abbiamo una pressione demografica enorme che sta montando in Africa. La popolazione africana è destinata a triplicare, quadruplicare nei prossimi decenni. Quella dell'Europa è destinata a rimanere flat, piatta, non variare in alcun modo. Questo fa sì questo squilibrio fa sì che noi abbiamo inevitabilmente una pressione all'ingresso, quindi una fattore di offerta, fattore di domanda, perché come dire, abbiamo bisogno di queste persone per continuare a riempire i vuoti demografici, senza i quali la nostra popolazione in età di lavoro si ridurrebbe drammaticamente di qualche milione di unità, e quindi immaginiamo una nazione che si spopola e quindi anche sempre meno capace di avere persone in grado di lavorare, e perché non solo dal punto di vista del sistema produttivo nel suo complesso, ma anche della gestione delle nostre famiglie, diventerebbe sempre più difficile la nostra vita. Immaginiamo come in quel bel film Cose dell'altro mondo, se da un giorno all'altro sparissero tutti gli immigrati, non funzionerebbe praticamente più niente nel nostro paese in termini di gestione banalmente delle nostre vite quotidiane, non parlo di fabbriche o di uffici o ma proprio delle nostre famiglie. E quindi però questo flusso a nostro avviso va in un certo qual modo gestito, certo. Bisogna coglierlo e trasformarlo in opportunità, non solo considerarlo come un'emergenza come è stato fatto fino adesso, e per fare questo occorre cominciare a gestire alcuni aspetti. Il primo aspetto è quello dell'integrazione. Certo. Perché non basta che queste persone vengano qui, questi devono sempre più sentire parte della nazione, parte essere cittadini, essere trattati come cittadini come gli altri. Ora, se pensiamo agli immigrati di prima generazione, che rappresentano la massa enorme di quelli che sono presenti oggi nel nostro paese, perché il nostro è un paese di recente immigrazione, fino al 1990 ne avevamo pochissimi, loro si possono anche accontentare di stare sul gradino più basso della scala sociale, perché hanno già fatto una conquista nel venire qui, affrancandosi da condizioni di miseria, disperazione, se non peggio guerre e quant'altro nei loro paesi. Ma i loro figli hanno bisogno di sentirsi cittadini serie A come i nostri figli, altrimenti andiamo verso la ghettizzazione, andiamo verso le banlieue, andiamo verso la violenza che oggi assume anche il volto terribile del terrorismo, come succede in Belgio, come succede in Francia. Questo noi ovviamente non vogliamo. Siamo un paese accogliente da molti punti di vista, e vogliamo continuare a essere tale. Quindi il primo aspetto è l'integrazione, e qui un ruolo enorme svolge ovviamente la scuola, l'ha fatto in tanti modi in questi anni, in un modo spontaneo. Gli studenti stranieri sono aumentati dal 2002 al 2014 da 240.000 a 806.000, rappresentano ancora una frazione degli 8,9 milioni di alunni delle scuole fino alla secondaria superiore, però è un aumento crescente e occorre delle politiche scolastiche mirate riguardo a loro, tenuto conto che ci sono ancora degli abbandoni scolastici molto elevati, 33% contro il 13,4% degli italiani, e i voti sono più bassi proprio perché non conoscono la lingua fondamentalmente, ripetono almeno un anno, nonostante siano spesso inseriti a livelli di istruzione che sono più bassi di quelli della loro età. Quindi occorre intervenire su questo aspetto, perché altrimenti ne facciamo delle persone che quando entrano sul mercato del lavoro partono svantaggiate. Sì, devo dire che mi aspettavo anche, sto leggendo gli sms mentre tu stavi analizzando questi dati, e gli sms WhatsApp. Allora, io posso capire che il tema durante la disoccupazione che abbiamo urti, e vedo dei messaggi anche molto violenti, però attenzione, come il Centro Studi Confindustria ricorda, gli immigrati valgono il 10,6% del totale degli occupati, il 16% in agricoltura, il 9,6% è occupato nell'industria in senso stretto, il 16% nelle costruzioni, quindi edilizia, il 19% nella ristorazione, negli alberghi, dove fa lavori non sempre, anzi, anche bassi, e il 40% nei servizi sociali alle persone, che vuol dire badanti e colf, ok? Ma questo per dare anche le proporzioni. Allora, qui bisogna capire se delle categorie che ho elencato stanno veramente rubando lavoro, come scrivono alcuni, agli italiani, oppure, diciamocela tutta, in queste categorie, cioè profili bassi nelle costruzioni, profili bassi nei servizi sociali e assistenza alle persone, profili bassi nella ristorazione, negli alberghi, non stiano facendo lavori che gli italiani non vogliono fare. Perché io capisco anche il nervosismo di chi dice: ma con la disoccupazione che abbiamo in Italia, con la crisi, volete abbassare ulteriormente il costo del lavoro perché tanto con 5 immigrati riuscite a pagare è quello che costa un italiano? Ma non è così nella distribuzione poi dei lavori, assolutamente, Luca. Assolutamente non è così. A me piace, diciamo, capisco perfettamente questo tipo di reazione di pancia, ma è una reazione di pancia che non guarda alla realtà. La realtà è un po' quello che dicevi tu, quello che succede è che c'è complementarietà, molta poca concorrenza tra immigrati e italiani. C'è complementarietà perché gli immigrati, anche diciamo nell'istruzione medio-bassa, a parità di istruzione fra italiani e immigrati, svolgono funzioni e ruoli diversi, più diciamo così applicativi, più diciamo manuali, meno concettuali, meno relazionali di quelli che svolgono sempre allo stesso livello di istruzione e inquadramento gli italiani, proprio per il fatto che gli italiani hanno maggiore conoscenza della lingua e maggiore capacità relazionali rispetto a un immigrato, e invece a livelli medio-alti di nuovo ci sono divisioni di competenze diverse. Quando un immigrato è istruito, di solito svolge attività che richiedono capacità matematiche, logiche, però diciamo più chiuse in ufficio, mentre diciamo gli aspetti manageriali e dirigenziali sono svolti dagli italiani. La verità è che questa sì, alcuni hanno media, paura che più che rubare lavoro modifichino il potere contrattuale. Traduco: che se il datore di lavoro sa che oltre a me ci sono anche altre persone disposte a farlo per un salario molto più basso, riducono il mio potere contrattuale. Ma questi sono i timori, sono tanti di questi timori. Quello che noi abbiamo facendo, esaminando tutti gli studi che ci sono ed esaminando anche la realtà, quello che troviamo non è questo. Rovesciamo anche la medaglia dall'altra parte e vediamo quanto noi paghiamo, parliamo di tutti i cittadini, direttamente o indirettamente, alcuni beni perché questi servizi sono erogati da persone che guadagnano meno, sono servizi alla persona che altrimenti normalmente non ci potremmo permettere e che gli italiani non svolgono. Quanti sono i ragazzi italiani che oggi vorrebbero fare la carriera del barbiere o del parrucchiere? Una minoranza rispetto a un tempo. Sì, banalmente anche di cameriere. Io non sto dicendo che non esista alcuna sovrapposizione. Se consideriamo, facciamo quello che ci hanno insegnato alle scuole elementari, il calcolo insiemistico, cioè prendiamo un cerchio e poi ci disegniamo un altro cerchio. Il cerchio sono gli italiani, l'altro cerchio sono gli immigrati. La sovrapposizione è minima. È chiaro che è minima e quella minima va a colpire quello stato di popolazione che è già più svantaggiato in Italia perché appartiene alla meno istruito, le persone meno istruite che fanno fatica a riqualificarsi, che guadagnano meno, che svolgono mansioni più meno gratificanti, più umili. Questo esiste, nessuno lo nega, però se guardiamo l'insieme e guardiamo il generale, non è così, non è questo. Noi come Confindustria, come Centro Studi Confindustria, abbiamo sottolineato e abbiamo tirato fuori anche nel momento in cui qualche governo non voleva dire questa verità, il fatto che abbiamo un'elevata disoccupazione. Ci sono circa 8 milioni di persone nel nostro paese che hanno bisogno di lavorare più di quello che lavorano adesso, o perché sono totalmente disoccupati o perché hanno un part time di tipo economico, cioè vorrebbero avere un full time ma non hanno full time, o perché sono disoccupati scoraggiati, cioè non cercano lavoro perché temono di non trovarlo, sono scoraggiati da altre ricerche precedenti. Quindi abbiamo ben presente questo aspetto, ma non è senza gli immigrati che trovi posto di lavoro per queste persone. Questa è la realtà fattuale. Quindi noi in generale, l'ha detto molto bene anche il Presidente Boccia ieri, Pensiamo che ci vogliano riforme nel mercato del lavoro che aiutino a formare persone, aiutino il collocamento, politiche attive del lavoro. E questo, non pensiamo che ci vogliono delle politiche speciali per gli immigrati a questo punto di vista, ci vogliono politiche che valgono per tutta la popolazione, italiani innanzitutto, che sono la maggioranza della popolazione del mercato del lavoro in generale, e poi saranno anche gli stranieri. Però questo, attenzione, questo non significa che non ci voglia un'attenzione specifica per gli immigrati, perché comunque gli immigrati li avremo, non li possiamo mandare a casa, non li manderemo, non li possiamo mandare a casa perché ci fermiamo come paese. Ringraziati Luca Paolazzi, e tra l'altro andare su processi selettivi sui flussi migratori significa anche appunto non... Questo lo dico a chi scrive, avere anche una capacità, come fanno i paesi più seri, di scegliere i profili che ci interessano, cioè non è l'esatto opposto di quello che sbarca e tu accogli tutti, come stanno scrivendo alcuni ascoltatori. Significa appunto avere un piano che superi il sistema, diciamo, quote tu cure, vada a vedere anche di quali profili abbiamo bisogno. Poi io capisco, vedo una marea di insulti, per carità. Capisco tutto, però poi bisogna anche scontrarsi, o meglio affrontare la realtà dei numeri, dei fatti, al di là delle idee personali, perché i numeri poi parlano. E quindi da questo punto di vista, pur essendoci, come ricordava Luca Paolazzi, zone di sovrapposizione, in cui, per dire tutta, l'immigrato sì rischia di rubare il lavoro all'italiano o di abbassare il prezzo del lavoro, nella stragrande maggioranza dei casi fanno lavori, come sa chi ha una colf, una badante, chi gestisce un ristorante, una pizzeria, un albergo, chi lavora in campagna, che non vedono richiesta di italiani. Ok, tutto qua. Poi se mi dite che le colf sono pagate poco, quelle in regola, io non sono mica tanto d'accordo, onestamente, perché non mi sembra che lì ci sia uno sfruttamento totale, mi sembra che abbiano dei salari, di tutto rispetto per il lavoro che fanno, non paragonabili a altri salari, anche con caratteristiche più qualificate come profilo professionale. Non vedo lo sfruttamento della colf, onestamente, con quello che costano. Detto ciò, grazie Luca Paolazzi, in collegamento con noi, direttore del Centro Studi Confindustria. Meteo, pubblicità e poi andiamo sulla borsa. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è INAZ, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. Allora, ma benissimo, vedo ancora moltissimi messaggi su quanto ha stimato la Confindustria, 124 miliardi di lavoro dei migranti, nessuno ha detto che non vi siano sovrapposizioni, ogni tanto ci sono, ma attenzione ai cortocircuiti, se sono saltati alcuni lavori da impiegato non è perché hanno messo un immigrante, non raccontiamoci palle però, per favore, sempre, perché fa comodo ragionare con la pancia, però poi la testa è quella che ti porta avanti. Allora, sapete benissimo, quando andate in un ristorante, quando avete una persona anziana, quando avete un bambino, che senza le colf, le badanti, non regge il sistema, sto cavolo di sistema, ok? Allora, c'è la concorrenza di colf italiane? Io non l'ho mai vista. C'è la concorrenza di badanti italiane? Io non l'ho mai vista. E voglio dire, le ho dovute cercare anch'io. Allora, e tra l'altro, non mi sembra che gli stipendi di colf e badanti, nel caso specifico, siano così bassi da dire che stiamo facendo lo sfruttamento del lavoro. Ok, allora, dopodiché uno mi può citare i pomodori nel casertano, e ha ragione, se ci sono condizioni di lavoro illegale, ce ne sono, cavolo, se ce ne sono, sono sbagliate, sono illegali, vanno punite. E stavamo parlando del contributo dei lavoratori regolari in Italia, va bene? E qualcuno mi scrive, sì, come le cinesi, le parrucchiere cinesi a 12 euro. Allora, parliamoci chiaro, però... Queste esistono perché qualche italiana va a farsi le mani e i capelli a 12 euro, giusto? Allora, quella lì è contenta di andare a farsi a 12 euro. Secondo aspetto, visto che mi toccate il mondo del commercio, verissimo, ma perché uno va dalla parrucchiera a 12 cinese o dalla manicure cinese? Perché è aperta il sabato alle 9 di sera. Allora iniziamo a fare un bel ragionamento su tutte le rendite di posizione del nostro mondo del commercio, che non ne vuole sentire di licenze liberalizzate che vanno incontro alle esigenze del cliente, va bene? Volete ragionare come gli anni 60, 70, 80, 90? Va bene, perfetto, continuiamo a negare, mettiamo delle belle barriere, va bene così, dai. Sì, sto dicendo delle stupidaggini, ha ragione, va bene così. Andiamo oltre, dai. Cioè, in un mercato, se si crea un'offerta, e io sono d'accordo che l'offerta delle parrucchiere cinesi, delle manicure cinesi, stia dando fastidio, ma si crea un'offerta perché mancava forse da qualche altra parte, perché questo è ancora il sistema in cui ogni categoria professionale ha il suo giorno di chiusura, come cavolo vuole lei. Vogliamo parlare anche di questo o facciamo, diamo sempre la colpa agli altri? O mi dite che le parrucchiere cinesi rubano il lavoro perché sono più brave? Non è così, dai, fanno prezzi più bassi e hanno maggiore flessibilità all'orario, ma chiedetelo alle vostre mogli invece che rompere le scatole a me. Oh, dai, andiamo avanti. Sono loro che ci vanno, mica ci vado io dalla manicure o dalla parrucchiera cinese, abbiate pazienza. Allora, andiamo avanti con la borsa. In questo momento Milano più 3,71%, rivede quasi quota 18.000 punti. Parigi più 2%, Francoforte più 1,80%, Londra più 1,15%, l'America un punto percentuale. Così le borse oggi scommettono che vinceranno i Remain, che quindi il referendum in Gran Bretagna sarà favorevole al mantenimento della Gran Bretagna nell'Unione Europea. È un'ipotesi loro molto forte oggi, visti i recuperi, soprattutto a Milano. Flavia Carletti, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Più 3,71%, UbiBanca più 9,90%, Unipol più 7,70%, Popolare Emilia Romagna più 7,70%, Unicredit più 7,20%, Banco Popolare più 6,5%, Mediobanca più 6,20%, Popolare Milano più 5,60%, Mediaset più 5,50%, Exor più 5,90%, e ancora Intesa San Paolo più 5, Telecom più 4,70, CNH più 4,30 come generali e Unipol. Sai, ma che è cambiato? È cambiato semplicemente, diciamo, se vogliamo essere sinceri, nulla in teoria, perché i sondaggi sono più o meno sempre gli stessi, danno un testa a testa quasi continuo tra il Remain e invece il Leave della Gran Bretagna. Probabilmente oggi però gli investitori hanno creduto di più a quelli che davano il Remain in testa, anche se l'ultimo sondaggio, quello del Financial Times, che ha fatto una specie di summa generale di tutti i sondaggi pubblicati fino adesso, dava il 48% in vantaggio il Remain, il 46 circa il Leave, quindi diciamo che la forbice sarà decisa alla fine dagli indecisi, che comunque continuano a restare, diciamo, l'ago della bilancia nella maggior parte dei sondaggi più accreditati. Se vogliamo dire, le agenzie di scommesse anche oggi, dalle quote che hanno dato, pensano che comunque la Gran Bretagna resterà nell'Unione Europea, visto che difficilmente si sbagliano. Oggi gli investitori sembra che abbiano dato proprio molto più credito a quelle che sono le voci o comunque le indiscrezioni, i dati, che poi indiscrezioni su votazioni è difficile, però su quelli che sono stati tra sondaggi e varie dichiarazioni fatte, quello che appunto sarà il Remain, come dicono alcuni, e non il Brexit. No, vedo dei messaggi. Guardate che il tema ancora sugli immigrati. Il tema che scrive un ascoltatore: siamo uno spettacolo, vogliamo pagare tutto low cost, i voli, il cibo, il viaggio, e poi però vogliamo stipendi altissimi. Dobbiamo metterci d'accordo: il low cost, la concorrenza ti serve, ti è utile quando sei tu cliente, quando sei tu che devi sceglierti l'aereo, l'albergo, il ristorante, il manicure, il pedicure. La vuoi la concorrenza, vero? Anche quando devi scegliere i servizi sociali, per cui la badante, la cof, la vuoi. Ecco, poi però ti lamenti che c'è la concorrenza. Dobbiamo metterci d'accordo su questo. Dopodiché non posso far solo la puntata su questo, che i cinesi evadano. Questo non è un problema però della concorrenza, è un problema che i controlli fiscali vanno fatti meglio, ok? E vanno fatti anche e soprattutto sui cinesi, ma su questo siamo totalmente d'accordo, ok? Punto. Ma non è cosa c'entra il fatto che il cinese evada. Allora, se dovessimo iniziare a prendercela con tutte le categorie di questo paese che evadono, occhio al ragionamento che andate a fare, perché non evadono solo i cinesi in questo paese, possiamo dirlo? Traffico. Focus Economia. Ok, Flavia Carletti, torniamo sulla borsa, va là. Dicevamo, non è cambiato nulla, ma l'orientamento del mercato, però c'è qualche notizia di mercato. Telecom, per esempio, c'è un'intervista al numero 1 di Orange. Telecom guadagna oggi quasi il 4,75%. Sì, esattamente. La notizia che ha fatto salire oggi i titoli di Telecom, comunque in una giornata in generale positiva, è stata l'intervista del CEO di Orange, Stéphane Richard, alla Tribune, nel quale ha parlato molto dei rapporti con Vivendi, del fatto che loro hanno dei importanti rapporti commerciali, che questo comunque che vogliono diffondere insieme i contenuti di TV attraverso la piattaforma di TLC, e gli investitori hanno già visto probabilmente qualche possibile movimento anche per Telecom, perché Vivendi è il principale azionista di Telecom, anche poi comprato praticamente la piattaforma televisiva a pagamento Mediaset Premium, e quindi vedono gli operatori oggi hanno visto probabilmente il fatto che Telecom possa giocare un ruolo sia nella voglia di espandersi in Europa, in Africa di Vivendi, secondo quello che ha detto il CEO di Orange, e poi anche nei rapporti tra le due società francesi potrebbe rientrare in qualche modo anche quella italiana. Allora, sulle banche, in realtà, oltre all'intonazione positiva, c'è anche il Banco Popolare che, mentre Veneto Banca, come abbiamo visto a questo punto, entra a fondo, ma era ampiamente previsto, entra a fondo Atlante, il Banco Popolare ha chiuso con successo un aumento non necessariamente in discesa, anzi, ha sottoscritto bene 990 milioni di euro. Venerdì partirà l'offerta per l'inoptato, però hanno già sottoscritto il 99,4% del capitale, quindi l'inoptato è poca roba, e il titolo ne beneficia, più 6,50, ma insomma è un buon segnale per tutte le grandi banche, mettiamola così. Sì, esattamente, appunto, ieri sono stati diffusi i dati sull'aumento di capitale del Banco Popolare, che è stato definito da tutti quanti un successo. L'inoptato è veramente piccolo, perché comunque loro puntavano a raccogliere circa 1 miliardo di euro e hanno già raccolto 990 milioni, e secondo Pier Francesco Saviotti, il numero uno, dice che questo risultato è stata una soddisfazione enorme, soprattutto ha rimarcato anche lui il fatto che questo risultato è stato raggiunto in un contesto di mercato molto difficile, c'è stato solo appunto l'intervento degli azionisti, dei soci, e non c'è stato nessun intervento delle banche garanti, quindi è stato visto probabilmente dal sistema anche un segnale di sostegno, perché per altre operazioni o comunque per quello che sarà il futuro, ormai Banco Popolare, grazie a questo successo, si potrà avviare, diciamo, ormai la strada è in discesa per la fusione con la BPM. Poi lunedì UbiBanca presenterà un nuovo piano industriale, e anche lei è data una di quelle banche che potrebbero poi essere interessate da future operazioni magari straordinarie, non di aumento di capitale, ma più che altro di magari future aggregazioni, o comunque potrebbe giocare un ruolo nel consolidamento del sistema. Quindi, diciamo, sono tutte notizie che hanno comunque acceso i riflettori sul comparto e oggi hanno fatto volare alcuni titoli. Sì, ancora devo... Difficile fare la borsa se continuano a ricevere messaggi. Allora, caro Genio, la gente non va dai cinesi per gli orari, ma perché i salari sono bassi e i cinesi costano meno. Sicuramente anche per questo. Ma perché ci vanno allora le signore dell'alta e ricca borghesia che la crisi l'hanno solo letta sui giornali, dai cinesi? Anche gli orari contano. Guardi, mi ha appena scritto un funzionario di Carrefour, ha detto che dopo aver avviato l'apertura H24, cioè 24 ore al giorno, del suo centro commerciale, hanno fatto più 30% pagando tutte le tasse di incassi. Forse gli orari contano, forse non contano solo, e contano anche i prezzi, ma forse anche gli orari e la disponibilità. Andate a vedere gli orari del nostro commercio, ma spiegatemi perché i barbieri chiudono alle 5 di pomeriggio. Se volete facciamo la puntata su questo il sabato. Voglio dire, siamo un paese ancora, ma ce l'abbiamo un fiorino, due fiorine? Facciamo risentire Benigni e Troisi fra un attimo. Mentre concludo la borsa, perché adesso mi sono girate qui, ma non con te Flavia, ci mancherebbe. Andiamo avanti, Unicredit, bene anche lei, anche se ormai stanno facendo una squadra da calcio sui nomi papabili per il numero uno, più 7,20%. Sì, esattamente, Unicredit oggi aveva iniziato all'inizio un po' più sottotono rispetto agli altri, poi ha seguito il flusso e poi infatti è stata una delle migliori. Ormai appunto c'è questo toto nomine, sono stati fatti tantissimi nomi, e comunque c'è il mercato che aspetta questo, il successore di Federico Ghizzoni, ancora non c'è un nome sicuro, anzi qualcuno stamattina diceva probabilmente vengono fatti nomi anche per bruciarli, la storia dei papi, i vescovi, e quindi bisogna capire ancora. Per ora si è in attesa, probabilmente però nell'attesa oggi, in una giornata di acquisti su tutto il comparto, anche Unicredit, che era partita un po' quasi sottotono, alla fine ha beneficiato di tutto il rialzo. E poi domani vedremo se verrà confermato dopo l'esito del referendum, il peggior titolo, Axelero meno 9,90, Agronomia meno 7,80, Invest meno 6%, Safebag meno 6, EMS più 19, Innovatech più 14, UbiBanca più 9%. Grazie a Flavia Carletti. Radio Colle sulle 24 ore. Mi fanno notare alcuni ascoltatori che a Londra, a New York, a Parigi, ad Amsterdam, dovunque, chi tiene aperti i negozi la sera sono, o gli shop che aprono tutta la notte, è vero, sono spesso extracomunitari, le comunità indiane, le comunità magrebine, le comunità pakistane, è verissimo, si chiama mercato del lavoro, cioè non mi sembra che questo, vogliamo contestare anche questo, per tornare all'orario di chiusura bellissimo, tutti chiusi sempre alla stessa ora, guardate che capita anche negli altri paesi, noi siamo ancora quello in cui il barbiere chiude il lunedì e il sabato chiude prima, il ferramenta chiude il sabato, mi ricordo, cioè è una cosa pazzesca sto paese. Poi ti lamenti che la GDO, non gli extracomunitari, la grande distribuzione faccia concorrenza agli esercizi commerciali, ma te credo, finché non ci sarà un modo per venire incontro al cliente, poi c'è internet e poi c'è Zalando e poi c'è Yux & Rapporté, ti fa gli acquisti online, so, se il mondo sta cambiando solo per noi va bene così, altri vogliono restare le vecchie corporazioni, va bene, va bene, va bene. Just hoping the money, money, money, money, money. Love me, honey. I just hoping the money, money, money, money, money. Love me, honey. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. Oh, scusi, sacco, doganiere. Scusi. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, cioè è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno. Adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, sbaglio sempre un fiorino. Siamo due, tre, sempre. Grazie, arrivederci. Senta. Ehi! Hey! Che siete? Ma da cosa portate? Troisi Benigni, non ci resta che piangere, invece a noi adesso resta il GR24, poi parliamo anche di Brexit, degli ultimi proiezioni, sondaggi non ce ne sono chiaramente, neanche dati sull'affluenza, e delle pensioni, perché domani esce tutta una guida per capire che cosa prevede il nuovo regolamento per andare con la pensione anticipata e il meccanismo di anticipo pensionistico, il cosiddetto APE. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Ci sentiamo dopo il GR24. Il segnale orario vi è offerto da Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. State ascoltando un programma offerto da... Se nella tua azienda c'è Inaz, c'è solo il bello del lavoro. www.inaz.it. Focus Economia. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di Brexit, come ogni giorno, tanto non vi preoccupate, domani l'ultima, domani avremo il verdetto, non ho ancora ben capito, mi sembra che non lo stia capendo nessuno quale sarà l'orario esatto. Chiedo conferma al nostro Sergio Nava in una Londra colpita pesantemente dalle piogge che hanno in realtà colpito ancora più pesantemente tutto il sud dell'Inghilterra. Abbiamo visto anche immagini di elettori che andavano a votare attraversando muri d'acqua. Sergio, buonasera innanzitutto. Sì, buonasera Sebastiano, e tra l'altro è ripreso a piovere pesantemente circa mezz'ora, tre quarti d'ora fa, quindi il maltempo come previsto è tornato a imperversare qui su Londra e sul sud-est del paese, quindi diciamo che almeno questa zona è stata, qualche problema oggi l'ha avuto anche per chi si doveva recare a votare. Lavoro, certo. Difficile dire poi se questo avrà esito sul voto, ma sicuramente insomma sono scene che insomma, abbiamo visto abbastanza anche nel continente, che stanno cominciando a verificarsi anche qui. Ecco, da questo punto di vista, varie dichiarazioni anche oggi, colloqui tra il presidente Juncker e Renzi, dichiarazioni di Angela Merkel, è un giorno speciale, spero che la Gran Bretagna resti nell'Unione Europea, e ormai diciamo, abbiamo una lista paginate e paginate di dichiarazioni. Tu anche oggi hai compiuto i tuoi giri, non nella City in questo caso, ma per capire che cosa si attendono le categorie produttive. In questo programma parliamo di economia e di finanza. Sergio. Sì, allora noi abbiamo intervistato Andy Bagnall, che è Director of Campaigns, direttore delle campagne per la CBI, che è la Confindustria di fatto britannica, quindi capire un po' con lui quali ricadute potrebbero esserci nello scenario, chiaramente sempre facciamo uno scenario peggiore, quello di una Brexit, perché nell'altro scenario si andrebbe sostanzialmente avanti più o meno come attualmente è attualmente la situazione, tranne qualche eccezione negoziata da David Cameron. E allora con Andy Bagnall abbiamo cercato di capire cosa può accadere dal punto di vista delle ricadute economiche se vincessero i Leave. Loro hanno fatto uno studio e lui ce lo spiega. CBI conducted research with PwC, PricewaterhouseCoopers, to model the possible impacts of a vote to depart. Noi come CBI abbiamo condotto una ricerca insieme a PricewaterhouseCoopers per delineare il possibile impatto del voto favorevole all'uscita dall'Unione Europea. Le nostre stime variano a seconda dei parametri presi in considerazione, ma abbiamo notato impatti negativi da ogni scenario. Il nostro modello indica che ci sarebbe uno shock piuttosto prolungato per l'economia britannica. Nello scenario peggiore, in cui il Regno Unito non riuscisse a raggiungere rapidamente un accordo commerciale con l'Unione Europea, l'impatto sulla nostra economia arriverebbe fino a 100 miliardi di sterline, da qui al 2020. E ci sarebbero 950.000, quasi un milione di posti di lavoro in meno rispetto a ciò che avverrebbe restando in Europa. Direi che è un impatto decisamente rilevante sull'economia. Anche nell'ipotesi più ottimistica, ci sarebbe comunque uno shock pari a circa 55 miliardi di sterline e 500.000 posti di lavoro in meno, sempre rispetto allo scenario Remain. Quindi, anche nello scenario più favorevole che abbiamo ipotizzato, l'impatto sull'economia sarebbe considerevole. E poi ad Andy Bagnall abbiamo chiesto quali potrebbero essere i settori maggiormente colpiti da una possibile Brexit. Sentiamo cosa ci ha detto. Well, people will vote in this referendum for a variety of different reasons. Security, identity, for some people immigration will be a big issue. Le persone andranno a votare per le ragioni più diverse, la sicurezza, l'identità. Per alcuni poi l'immigrazione è la questione principale. Sulla questione economica, quella in cui le imprese hanno più voce in capitolo, cosa sarebbe meglio per il lavoro, per la crescita, per la qualità della vita, vediamo che le tesi a favore del rimanere in Europa sono schiaccianti rispetto a quelle dell'uscita. Non solo il nostro modello sostiene questa tesi, ma anche la London School of Economics, il Tesoro, il Fondo Monetario Internazionale mostrano che se si scegliesse di lasciare l'Europa, i costi per la nostra economia sarebbero significativi. La componente maggiore che peserebbe sulla mancata crescita sarebbe la grande incertezza, il non sapere come saranno tra 5 o 10 anni i rapporti tra il Regno Unito e l'Unione Europea. Ciò probabilmente avrebbe un forte impatto sugli investimenti, sia delle nostre imprese che investono sul mercato domestico, ma ancor di più per le imprese estere, che siano le case automobilistiche giapponesi o le banche americane qui nella City. L'incertezza metterebbe in pausa i loro investimenti. Il nostro modello indica che nel peggiore dei casi si avrebbe un calo degli investimenti del 25%, una flessione che si farebbe poi sentire sull'economia e agirebbe come zavorra sia sulla crescita sia sul mercato del lavoro. And that drop in investment feeding through into the economy is what's likely to act as a drag on growth and a drag on job creation. Una cosa importante è che però anche il mondo dell'industria britannico non è compatto a favore del Remain, del restare in Europa, anche se chiaramente è maggiormente favorevole, in preponderanza favorevole a questo. Allora abbiamo chiesto ad Andy Bagnall di tracciare un identikit di chi all'interno delle industrie britanniche è a favore del Remain e chi invece vuole lasciare l'Europa. Sentiamo. The CBI speaks for 190,000 businesses who between them employ 7 million people. La CBI rappresenta 190,000 imprese che occupano 7 milioni di persone, ossia circa un terzo dei dipendenti privati nel Regno Unito. L'80% dei nostri membri pensa che per la loro attività sarebbe meglio restare nell'Unione Europea. Solo il 5% crede che uscire sarebbe la cosa migliore. I giudizi non sono unanimi, ma la stragrande maggioranza pensa che i vantaggi del restare sorpassino di gran lunga gli svantaggi. La tendenza che troviamo al nostro interno è la stessa in altre realtà della comunità finanziaria. Da tutte le ricerche condotte nei settori più diversi da altre organizzazioni, come la Camera di Commercio, emerge che la maggioranza più o meno ampia delle imprese vuole restare in Europa. È nell'interesse di chi sostiene l'uscita affermare che la comunità degli affari è spaccata. Non è così. Le ragioni economiche sono nettamente a favore del restare nell'Unione. Abbiamo rilevato che più un'impresa è proiettata sui mercati esteri, più è favorevole a rimanere. Quelle imprese che esportano verso l'Unione Europea chiaramente hanno un interesse nel mercato unico. Allo stesso modo, le imprese che fanno parte della filiera dei fornitori di chi esporta capiscono che la richiesta delle loro merci è spinta dai consumatori degli altri paesi europei. Al contrario, le imprese che sono all'inizio della catena dei fornitori e quelle che hanno attività solo nel mercato domestico vedono solo i costi e non i benefici dell'avere accesso a un mercato di 500 milioni di persone. Alla fine contano i numeri e solo il 5% dei nostri membri pensa che sarebbe meglio lasciare l'Unione Europea, mentre l'80% crede che si stia meglio restando all'interno. Quindi la taglia alla linea divisiva, lo avete sentito, è tra chi esporta e chi non esporta, più che tra grandi imprese o PMI. E poiché diciamo, la Confindustria britannica si trova all'interno della City, la sua sede è vicino a Cannon Street, e quindi insomma Andy Bagnall frequenta la comunità finanziaria di quel posto, gli abbiamo chiesto se questa comunità della City è per il Remain oppure c'è anche chi vota Leave. Sentiamo. This has been a very, very close run referendum campaign. È stata una campagna caratterizzata da un testa a testa tra le due posizioni e i nostri membri considerano tutti gli aspetti delle due parti. In un certo modo è sorprendente, visto lo schiacciante vantaggio dal punto di vista economico della posizione che sostiene il restare nell'Europa, ma le persone considerano tutti gli elementi quando devono decidere. Nel paese e anche nella comunità economica e finanziaria c'è stato grande dibattito su quale fosse il futuro migliore per il Regno Unito. Certamente ci sono uomini d'affari che vogliono lasciare l'Unione. Alcuni di loro lavorano nella City, ma la maggioranza dei rappresentanti dei servizi finanziari è a favore del restare nell'Unione. Il passaporto è un fattore estremamente importante nella comunità finanziaria. Lasciare l'Europa e il mercato unico significherebbe rinunciare a tutti i vantaggi di questa posizione. Alcuni pensano che si starebbe meglio uscendo, ma la maggioranza della comunità finanziaria sostiene invece il rimanere nell'Unione. Allora, Sergio Nava, un'ultima domanda, anche se temo che tu mi darai una risposta identica a quella di ieri. Veramente non si riesce a capire con un po' più di precisione quando il meccanismo di scrutinio, di spoglio, ci potrà dare, non dico la notizia definitiva, ma almeno insomma avere degli orientamenti significativi, visto che appunto che il testa a testa, per quanto adesso tutti si stiano orientando, il mercato oggi scommette che vinceranno i Remain, ma il testa a testa nei sondaggi resta, Sergio. Sì, alla fine guarda, vediamo se qualcuno poi alla fine pubblicherà degli exit poll, la BBC non lo farà, vediamo se qualche rete privata lo farà, al momento non c'è traccia di questo, vediamo cosa faranno gli hedge fund, quindi teniamo d'occhio i mercati stasera, chiusura delle americane, apertura degli asiatici e soprattutto per chi volesse fare notte e non volesse insomma capire come vanno le cose prima dell'ora di colazione, prima dell'alba di domani mattina, diciamo in piena notte, se questa è l'impressione, se il leave, cioè lasciare l'Europa, non dovesse sfondare o addirittura dovesse tenersi su una condizione di pareggio sostanziale nella notte, probabilmente la Gran Bretagna resterà, perché ci sono molte regioni del nord e del centro della Gran Bretagna che daranno i risultati intorno alle 2 alle 3 di notte, e lì dovrebbe in qualche modo, se dovesse vincere il Leave e quindi lasciare Europa, dovrebbe sfondare. Se sfondasse molto, diciamo che la Gran Bretagna andrebbe verso l'uscita. Se invece si tenesse un testa a testa, o addirittura rimanesse in testa e Remain, beh, probabilmente la Gran Bretagna resterà. Quindi chiaramente sono meccanismi molto complessi e complicati. Sì, c'è, qualcuno mi scrive anche: attenzione, la Scozia deciderà le sorti del voto, la Scozia è contraria all'uscita tendenzialmente. Poi non so, neanche abbiamo intervistato tutti gli scozzesi presenti, però non è un mistero che da Scozia ha detto: beh, attenzione, se dovessero vincere quelli che escono, vogliono uscire dall'Europa, noi dovremmo a questo punto fare un referendum, perché noi invece siamo per restare nell'Europa. Sergio Nava, inizia alle 21 la grande notte di Radio 24, che seguirà con lo speciale il referendum, quindi il referendum britannico, quindi buon lavoro a te oltre che ai colleghi. Domani mattina dalle 6 di nuovo tutti gli aggiornamenti. Grazie al nostro inviato a Londra Sergio Nava. Allora, vedo molti messaggi di commercianti. Non posso fare la puntata su questo oggi, però faremo una puntata sul mondo del commercio. Nessuno ha detto che il commerciante debba lavorare 24 ore al giorno. Abbiamo solo detto se ha ancora un senso avere tutte queste rigidità nelle licenze commerciali. Uno vuole lavorare 8 ore, vuole farlo la mattina presto, l'altro vuole farlo fino a tardi la sera. Cioè, questo è il problema, perché sennò poi dove manca un'offerta, lì si infilano offerte di altri, tornando al discorso degli extracomunitari. Però non è che posso, cioè, è un tema che affrontiamo, ma ben prima dei flussi di migranti, quando il mondo del commercio era tutto in agitazione contro la grande distribuzione, e gli si disse: attenzione, però devi anche capire se tu non ti stia facendo del male da solo, perché il tema del servizio è un tema, poi possiamo girarci attorno quanto vogliamo, c'è già l'orario libero, va bene. Infatti a Milano Centro, ormai comprare un giornale la domenica dopo pranzo è un problema. Beh, se voi ritenete, insomma, io non è che, se uno ritiene che il mondo dei servizi in Italia funzioni come in altri paesi europei e ci sia un venire incontro alle esigenze del cliente, cioè che le mamme, che non è vero che le mamme che lavorano debbano catapultarsi dentro il negozio per comprare il latte prima che questo chiuda la clera alle 19, alle 19.30, e poi ti lamenti se questa va alla grande distribuzione, va bene così. Allora è un mondo di servizi perfetti, ok? Andiamo sul traffico e dopo invece devo dare prima una notizia, perché c'è un flash d'agenzia. Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, durante un'audizione davanti alla Commissione Finanze e Camera del Senato, ha detto: da cittadino chi ha venduto titoli illecitamente deve pagare. Da cittadino è una cosa da stigmatizzare che va fatta pagare. E la domanda era sui bond subordinati delle quattro banche salvate e venduti illecitamente. Sì, non solo da cittadino, anche da governatore della Banca d'Italia è una cosa da stigmatizzare e deve pagare chi ha venduto in maniera illecita. Mentre abbiamo il dato definitivo su Veneto Banca, l'aumento di capitale è stato un flop, ma già l'avevamo capito, hanno sottoscritto solo il 2,2% del capitale, cioè restano scoperti 978 milioni su un miliardo, solo 22 milioni sottoscritti, ed entrerà il Fondo Atlante, come ampiamente annunciato. Andiamo sul traffico e poi parliamo invece dell'iniziativa del Sole 24 Domani, che riguarda tutti coloro i quali vogliono approfittare delle nuove norme per andare in pensione anticipata, il meccanismo dell'APE, di quanto si taglierà e si ridurrà la pensione fino al massimo del 4%, e come funzioneranno i costi ma anche i benefici legati al meccanismo dell'APE. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, Salvatore Padura, domani il Sole 24 Ore esce con uno speciale di due pagine su simulazione, benefici e costi legati all'APE. Ricordiamo il punto d'arrivo abbastanza noto, c'è un taglio della pensione tra l'1 e il 3% all'anno, arrivando eventualmente a quota 4% per le pensioni più elevate, per chi per ogni anno che uno vuole andare in pensione anticipata. C'è però il meccanismo dell'APE, alcuni hanno detto che è un regalo alle banche. Voi domani fate tutte sì, delle simulazioni, giusto? Sì, sì, noi domani, diciamo, per la prima volta siamo in grado di fare delle simulazioni che sono, diciamo, fatte sulla base di indicazioni non ancora definitive, ma molto vicino ad esserlo, a diventare definitive. Oggi, peraltro, c'è stato un altro incontro tra il governo e i sindacati per mettere a punto questo strumento, che è uno strumento, diciamo, abbastanza complicato, che consentirà a chi sceglierà di farlo di lasciare il lavoro, diciamo, fino a 3 anni prima rispetto all'età per la pensione, e che, come dicevi tu, diciamo, produrrà, a seconda dei casi, una perdita che varia tra l'1,5, l'1,4 e il 4,5-5% per ogni anno di anticipo. Funzionerà di fatto con un prestito che l'INPS, che erogherà l'INPS, ma che sarà in realtà concesso dalla banca. Dopodiché il lavoratore, nel momento in cui raggiungerà il requisito per la pensione, comincerà a restituire con una rata mensile questo importo, l'importo del prestito. Al prestito sarà abbinata una copertura di tipo assicurativo per coprire, diciamo, l'eventualità sciagurata di una morte prematura, di premorienza, e insomma, domani, ecco, c'è la cosa... dichiarazione orora del ministro Poletti, che c'è una conferenza stampa in corso su questo. La leggiamo assieme. Ha detto Poletti: l'anticipo pensionistico allo studio del governo, il cosiddetto APE, varrà per tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici e gli autonomi. È una possibilità che avranno tutti i cittadini che hanno i requisiti per poter chiedere l'anticipo. Poletti ha anche ribadito che si stanno studiando sgravi fiscali per ridurre la rata di competenza del lavoratore che chiederà l'anticipo dell'assegno rispetto all'età per la pensione di vecchiaia. Quindi riguarderà tutti, autonomi, pubblici e settore privato. Fino, diciamo, a oggi pomeriggio, prima della conferenza stampa, si pensava che potesse valere solo per il settore privato, invece adesso apprendiamo che varrà per tutti. L'altra cosa, diciamo, significativa è che di fatto questo strumento avrà 3 modalità di funzionamento diverso a seconda della condizione in cui si trova il lavoratore che è potenzialmente interessato. Quindi, diciamo, i disoccupati, quelli che hanno perso il lavoro, i dipendenti di aziende che hanno in corso processi in fase di ristrutturazione aziendale, e infine i lavoratori che sceglieranno di liberarsi. Ovviamente in quest'ultimo caso il costo di tutta l'operazione, quindi, diciamo, la quota che resterà, la penalizzazione sulla pensione, sarà più elevata in questo terzo caso. Comunque la cosa importante è che domani su Sole 24 Ore, per la prima volta, forse riusciremo a spiegare bene come funziona questo meccanismo, che oggettivamente è un po' complicato, e avremo diciamo una decina di simulazioni sugli effetti, vantaggi, svantaggi, benefici, eccetera. E quindi non solo Brexit domani su Sole 24 Ore, anche se Brexit. La Brexit, vediamo quando arriveranno questi dati. Io ripeto, si farà notte fonda, alba presto o notte fonda, mi interessa poco. Grazie intanto a Salvatore Padula. Da Sebastiano Barisoni comunque l'augurio di una buona serata. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi, perché aumentare anche il voto in Gran Bretagna e soprattutto gli effetti sui mercati, effetti che però vedremo già domani mattina presto sui mercati asiatici, se non già in Australia e Nuova Zelanda. A domani. Radio 24. La passione si sente.